Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. E non avrei nulla. Per te.